Ad alta voce, Peppe Servillo legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Il nuovo Aureliano aveva compiuto un anno quando la tensione pubblica esplose senza alcun preavviso. José Arcadio II e gli altri dirigenti sindacali, che erano rimasti fino allora nella clandestinità, apparvero improvvisamente in un fine settimana e promossero manifestazioni nei villaggi della zona bananiera. La polizia si accontentò di mantenere l'ordine, ma nella notte del lunedì i dirigenti furono prelevati dalle loro case e mandati con ceppi da 5 chili ai piedi nel carcere del capoluogo di provincia. Tra gli altri portarono via José Arcadio II e Lorenzo Gavilán, un colonnello della rivoluzione messicana, esiliato a Macondo, che diceva di essere stato testimone dell'eroismo del suo compare Artemio Cruz. Comunque, prima che trascorressero 3 mesi, erano di nuovo liberi, perché il governo e la compagnia bananiera non si erano potuti mettere d'accordo su chi doveva provvedere alla loro alimentazione in carcere. Le lamentele dei lavoratori si basavano questa volta sulla insalubrità delle abitazioni, sulle truffe del servizio medico e sulla iniquità delle condizioni di lavoro. Affermavano inoltre di non venire pagati con denaro effettivo, ma con buoni che servivano soltanto per comprare prosciutto della Virginia nei magazzini della compagnia. José Arcadio II fu messo in carcere perché rivelò che il sistema dei buoni era un trucco della compagnia per finanziare le sue navi da frutta, che se non fosse stato per la merce destinata ai magazzini, avrebbero dovuto far ritorno vuote da New Orleans ai porti d'imbarco delle banane. Le altre accuse erano di dominio pubblico. I medici della compagnia non visitavano gli ammalati, ma non facevano altro che allinearli in fila indiana davanti ai dispensari. E una infermiera gli metteva sulla lingua una pillola color verde rame, che avessero il paludismo, la blenorragia o la stitichezza. Era una terapeutica così diffusa che i bambini si mettevano in fila più volte e invece di inghiottire le pillole se le portavano a casa per segnare i numeri cantati del gioco della tombola. Gli operai della compagnia erano ammassati in spelonche miserabili. Gli ingegneri, invece di costruire latrine, portavano negli accampamenti per Natale un cesso portatile per ogni 50 persone e si facevano dimostrazioni pubbliche sul come usarlo perché durasse di più. I decrepiti avvocati vestiti di nero, che in altra epoca avevano assediato il colonnello Aureliano Buendía e che ora erano procuratori della compagnia bananiera, scalzavano queste accuse con arbitri che sembravano opere di magia. Quando i lavoratori redassero un documento collettivo di richieste, passò parecchio tempo prima che potessero notificarlo ufficialmente alla compagnia bananiera. Non appena venne a sapere dell'accordo, il signor Brown agganciò al treno il suo sontuoso vagone di vetro e sparì da Macondo insieme ai più noti rappresentanti della sua impresa. Tuttavia parecchi operai ne trovarono uno il sabato dopo in un bordello e gli fecero firmare una copia del documento di petizione mentre ancora stava nudo con la donna che si era prestata a far scattare la trappola. I luttuosi avvocati dimostrarono in tribunale che quell'uomo non aveva nulla a che vedere con la compagnia e affinché nessuno mettesse in dubbio i loro argomenti lo fecero imprigionare come usurpatore. Più tardi il signor Brown fu sorpreso mentre viaggiava in incognito in un vagone di terza classe e gli fecero firmare un'altra copia del documento di petizione. Il giorno dopo comparve davanti ai giudici, coi capelli tinti di nero, e rispose alle domande in uno spagnolo perfetto. Gli avvocati dimostrarono che non era il signor Jack Brown, sovrintendente della compagnia bananiera e nato a Prattville, Alabama, bensì un inoffensivo venditore di erbe medicinali, nato a Macondo e lì battezzato col nome di Dagoberto Fonseca. Poco dopo, di fronte a un nuovo tentativo da parte dei lavoratori, gli avvocati esibirono in luoghi pubblici il certificato di morte del signor Brown, autenticato da consoli e cancellieri, nel quale si dava fede che il 9 del giugno scorso egli era stato investito a Chicago da un camion di pompieri. Stanchi di quel delirio ermeneutico, i lavoratori ripudiarono le autorità di Macondo e accedettero con le loro proteste ai tribunali supremi. Fu allora che gli illusionisti del diritto dimostrarono che i reclami mancavano di ogni validità, semplicemente perché la compagnia bananiera non aveva né aveva mai avuto né avrebbe mai avuto dei lavoratori al suo servizio, perché li reclutava occasionalmente e con carattere temporaneo, di modo che si annullarono le panzane del prosciutto della Virginia, delle pillole miracolose e dei cessi natalizi, e si stabilì per verdetto del tribunale e si proclamò con bandi solenni l'inesistenza dei lavoratori. Il grande sciopero esplose. I coltivi rimasero a mezzo. La frutta maturò sugli alberi e i treni di 120 vagoni si fermarono sui binari morti. Gli operai oziosi fecero traboccare i villaggi. La strada dei turchi splendette in un sabato di molti giorni e nella sala dei biliardi dell'hotel Jacob fu necessario stabilire turni di 24 ore. Lì si trovava José Arcadio II, il giorno in cui si annunciò che l'esercito era stato incaricato di ristabilire l'ordine pubblico. Benché non fosse uomo di presagi, la notizia fu per lui come un annuncio della morte, che aveva aspettato fin dal lontano mattino in cui il colonnello Gerineldo Marquez gli aveva permesso di assistere a una fucilazione. Tuttavia il malaugurio non alterò la sua solennità. Tirò il colpo che aveva previsto e non sbagliò la carambola. Poco dopo i rulli del tamburino, i latrati della tromba, le grida e la confusione della gente gli indicarono che non soltanto la partita a biliardo, ma anche la taciturna e solitaria partita che giocava con se stesso dal mattino dell'esecuzione erano finalmente terminate. Allora si affacciò in strada e li vide. Erano tre reggimenti, la cui marcia, ritmata da tamburi di galeotti, faceva trepidare la terra. Il loro alito di drago multicefalo impregnò di un vapore pestilenziale il chiarore del mezzogiorno. Erano piccoli, massicci, bruti. Sudavano con sudore di cavallo e avevano un odore di carnaccia macerata dal sole e l'impavidità taciturna e impenetrabile degli uomini dell'altipiano. Benché ci mettessero più di un'ora a passare, si sarebbe potuto pensare che fossero soltanto poche squadre intente a girare in giro, perché tutti erano identici, figli della stessa madre, e tutti sopportavano con uguale stolidità il peso del tascapane e delle borracce e la vergogna dei fucili con le baionette innestate e la scoglionatura dell'obbedienza cieca e del senso dell'onore. Ursula li sentì passare dal suo letto di tenebre e alzò la mano con le dita in croce. Santa Sofia della Pietad ebbe un attimo di esistenza, curva sulla tovaglia ricamata che aveva appena stirato, e pensò a suo figlio, José Arcadio II, che vide passare senza scomporsi gli ultimi soldati dalla porta dell'hotel di Jacob. La legge marziale dava facoltà all'esercito di assumere funzioni di arbitro nella controversia, ma non fu fatto nessun tentativo di conciliazione. Non appena eseguita la loro esibizione a Macondo, i soldati misero da parte i fucili, tagliarono e caricarono le banane e fecero muovere i treni. I lavoratori, che fino a quel momento si erano accontentati di aspettare, si buttarono nella selva senza altre armi che i loro machetes da lavoro, e cominciarono a sabotare il sabotaggio. Incendiarono poderi e magazzini, distrussero i binari per impedire il passaggio dei treni che cominciavano ad aprirsi la strada col fuoco delle mitragliatrici e tagliarono i fili del telegrafo e del telefono. I canali di irrigazione si tinsero di sangue. Il signor Brown, che era vivo nella caponaia elettrificata, fu fatto uscire da Macondo con la sua famiglia e quelle di altri suoi compatrioti, e tutti furono condotti in territorio sicuro, sotto la protezione dell'esercito. La situazione minacciava di degenerare in una guerra incivile, impari e sanguinosa, quando le autorità diramarono un comunicato ai lavoratori perché si concentrassero a Macondo. Il comunicato annunciava che il capo civile e militare della provincia sarebbe arrivato il venerdì seguente, disposto a intercedere nel conflitto. José Arcadio II si trovava tra la folla che si era concentrata nella stazione fin dal mattino del venerdì. Aveva partecipato a una riunione dei dirigenti sindacali ed era stato incaricato insieme al colonnello Gavilán di mescolarsi alla folla e di orientarla secondo le circostanze. Non si sentiva bene e ruminava una pasta salnitrosa sul palato da quando aveva notato che l'esercito aveva piazzato nidi di mitragliatrici intorno alla piazzetta e che la città recintata della compagnia bananiera era protetta da pezzi di artiglieria. Verso le 12, in attesa di un treno che non arrivava, più di 3.000 persone, tra lavoratori, donne e bambini, traboccavano nello spazio scoperto davanti alla stazione e si ammassavano nelle strade adiacenti che l'esercito chiuse con file di mitragliatrici. Sembrava in quei momenti, più che un'accoglienza, una fiera allegra. Avevano fatto venire i banchi di frittelle e le baracche di bibite dalla strada di Turchi e la gente sopportava di buon animo il fastidio dell'attesa e il sole rovente. Poco prima delle 3, corse voce che il treno ufficiale non sarebbe arrivato fino al giorno dopo. La folla stanca esalò un sospiro di avvilimento. Un tenente dell'esercito salì allora sul tetto della stazione, dove erano piazzati 4 nidi di mitragliatrici puntate sulla folla. E ci fu lo squillo del silenzio. Di fianco a José Arcadio II c'era una donna scalza, molto grassa, con 2 bambini di 4 e 7 anni circa. Prese in braccio il minore e chiese a José Arcadio II, senza conoscerlo, di alzare l'altro perché potesse sentire meglio quello che avrebbero detto. José Arcadio II prese il bambino sulle spalle. Molti anni dopo, quel bambino avrebbe continuato a raccontare, anche se nessuno gli credeva, di aver visto il tenente leggere dentro una tromba da grammofono il decreto numero 4 del capo civile e militare della provincia. Era firmato dal generale Carlos Cortés Vargas e dal segretario, il maggiore Enrique García Isaza, e in 3 articoli di 80 parole dichiarava agli scioperanti un branco di malfattori e dava facoltà all'esercito di ucciderli a fucilate. Letto il decreto, in mezzo a un'assordante fischiata di protesta, un capitano sostituì il tenente sul tetto della stazione e con la tromba da grammofono fece segno che voleva parlare. La folla tornò a fare silenzio. «Signore e signori», disse il capitano con voce bassa, lenta, un po' stanca, «concedo 5 minuti perché tutti si ritirino». I fischi e gli urli raddoppiati soffocarono lo squillo di tromba che annunciò l'inizio del tempo concesso. Nessuno si mosse. «Sono passati 5 minuti», disse il capitano con lo stesso tono. «Un minuto ancora e poi si farà fuoco». José Arcadio II, sudando ghiaccio, fece scendere il bambino dalle spalle e lo consegnò a sua madre. «Questi cornuti sono capaci di sparare», mormorò la donna. José Arcadio II non ebbe il tempo di parlare, perché in quello stesso momento riconobbe la voce rauca del colonnello Gavilán, che faceva eco con un grido alle parole della donna. Ubriacato dalla tensione, dalla meravigliosa profondità del silenzio e inoltre convinto che nulla avrebbe smosso quella folla ammalata dal fascino della morte, José Arcadio II si alzò sulla punta dei piedi, al di sopra delle teste che aveva davanti a lui. Per la prima volta in vita sua alzò la voce. «Cornuti!» gridò. «Vi regaliamo il minuto che manca!» Al termine del suo grido accadde qualcosa che non gli causò spavento. ma una specie di allucinazione. Il capitano diede l'ordine di fuoco e 14 nidi di mitragliatrici gli risposero all'istante, ma tutto sembrava una farsa. Era come se le mitragliatrici fossero state caricate con fuochi pirotecnici, perché si udiva il loro affannoso crepitio e si vedevano gli schizzi incandescenti, ma non si percepiva la benché minima reazione. Né una voce, nemmeno un sospiro, tra la folla compatta che sembrava pietrificata da una invulnerabilità istantanea. Improvvisamente, da un lato della stazione, un grido di morte lacerò l'incanto. Ah, madre mia! Una forza sismica, un alito vulcanico, un ruggito da cataclisma, scoppiarono nel centro della folla con una straordinaria potenza espansiva. José Arcadio II ebbe appena il tempo di sollevare il bambino, mentre la madre con l'altro era assorbita dalla folla centrifugata dal panico. Molti anni dopo il bambino avrebbe raccontato ancora, nonostante i vicini continuassero a crederlo un vecchio svitato, che José Arcadio II lo aveva alzato sopra la sua testa e si era lasciato trascinare quasi in aria, come fluttuando nel terrore della folla, verso una strada adiacente. La posizione privilegiata del bambino gli consentì di vedere che in quel momento la massa traboccante cominciava ad arrivare all'angolo e la fila delle mitragliatrici aprì il fuoco. Parecchie voci gridarono contemporaneamente: «Buttatevi a terra! Buttatevi a terra!» Quelli delle prime file lo avevano già fatto, falciati dalle raffiche di mitragliatrice. I sopravvissuti, invece di gettarsi a terra, cercarono di tornare nella piazzetta. E il panico diede allora una codata da drago e li mandò in un'ondata compatta contro l'altra ondata compatta che si muoveva in senso contrario, lanciata dall'altra codata da drago della strada opposta, poiché anche lì le mitragliatrici sparavano senza sosta. Erano accerchiati, giravano in un vortice gigantesco che a poco si riduceva al suo epicentro, perché i suoi bordi venivano sistematicamente ritagliati in tondo come una cipolla quando viene pelata dalle forbici insaziabili e metodiche della mitraglia. Il bambino vide una donna inginocchiata con le braccia in croce in uno spazio vuoto, misteriosamente vietato agli scoppi. Lì lo mise José Arcadio II, nell'attimo di stramazzare con la faccia bagnata di sangue, prima che il branco colossale travolgesse lo spazio vuoto. La donna inginocchiata, la luce dell'alto cielo di secca e il mondo Troia, dove Ursula Iguaran aveva venduto tanti animaletti di caramelle. Sometimes a person has to go a very long distance out of his way to come back in a short distance correctly.